te. E siamo soli, soli con te. Una cosa intorno mi parla di te, te. Vado a te nella voce, mi tocca il